La parola è adesso al professor Aurelio Rizzacasa, che è docente di filosofia della storia all'Università di Perugia. Il tema che tratterà è il seguente: il silenzio quale manifestazione dell'autenticità esistenziale. Dunque, anche io, trovandomi a parlare qui oggi, dopo una serie di relazioni e comunicazioni, non posso ignorare quanto è accaduto e credo dovermi collocare in una linea dialogica con tutti i lavori del convegno. Lascio perciò al testo scritto le citazioni e i dati bibliografici, anche perché il lavoro che mi accingo a presentare costituisce lo schema di uno studio che vorrei portare avanti in tutti gli autori delle filosofie esistenziali per ovviamente produrre uno studio molto più ampio, che non si può ridurre ad una comunicazione. Detto questo, cerco di esporre quindi le linee essenziali del problema dello spazio ritagliato al significato del silenzio, che appunto mi accingo a voler porre in luce e che mi pare è trasparito in fondo dai lavori, ma non è stato forse focalizzato in modo più specifico e puntuale. Ecco, parto anche io, ma con tutt'altri intenti del professor Boff, dall'affermazione del professor Antiseri, quando la ragione tace. Ecco, quando la ragione tace, che cosa accade? Possono accadere molte cose. Possono accadere l'apertura alla poesia, l'apertura all'arte, l'abbandono alla fede religiosa. Ma quando la ragione tace, possiamo anche compiere la scelta di percorrere un itinerario al di là del modello del conoscere, al di là di quel modello occidentale che trova nella razionalità e quindi nella parola lo schema privilegiato della comunicazione. In fondo, quando la ragione tace, possiamo trovarci, e molto spesso ci troviamo, ai limiti del pensabile, perché ci troviamo ai limiti del dicibile. E in questo trovarsi alle frontiere di un dato tipo di linguaggio, che è stato quello privilegiato in Occidente dal linguaggio del sapere, l'uomo non si rassegna a fermarsi e cerca di trovare altre vie, altri strumenti per andare al di là di queste frontiere. Ecco, il silenzio, in uno dei suoi tanti, dei suoi molteplici, dei suoi complessi significati, realizza questa modalità di procedere al di là del dicibile. Infatti, se lo spazio del silenzio è lo spazio del non detto, questo spazio può essere il non detto in quanto non voluto dire, in quanto non potuto dire, ma può essere lo spazio del non voluto e non potuto dire, in quanto il silenzio stesso costituisce un dire più forte del dire realizzato mediante la parola. E in questa direzione ci avventuriamo in un itinerario nel quale il silenzio non si pone più in una dialettica di immagine sfondo con la parola, non si pone più in una sintattica, semantica o pragmatica di tipo quantitativo, come intervallo, come pausa, come ritmo delle parole che ricorda il ritmo di una respirazione più o meno accelerata o più o meno rallentata. Ma il silenzio costituisce un elemento specifico e qualitativo che è già di per sé stesso un linguaggio, è già di per sé stesso parola. E allora nello schema aristotelico della distinzione tra linguaggio apofantico e linguaggio semantico, ovviamente ci troviamo nel secondo e non nel primo. E allora, nei limiti più volte ricordati qui nel convegno, delineati da Wittgenstein al dire e nella caratterizzazione del tacere, con il silenzio ci troviamo ad esprimere il non detto in un modo così pregnante che il detto non sarebbe capace di fare. Domandiamoci però a questo punto: si tratta soltanto con questa suggestione di aprire uno spazio indefinibile, quello di una comunicazione espressiva, oppure si tratta di indicare una specifica forma di linguaggio che è adeguata ad un contenuto altrimenti inesprimibile, o meglio, altrimenti esprimibile in un modo più grosso, più grossolano. Ovviamente la mia tesi è per questa seconda affermazione piuttosto che per la prima. Se accettiamo questo tipo di argomentazioni, cioè il fatto che il silenzio, è stata ricordata anche questi giorni la distinzione tra giochi e atti linguistici, evidentemente ci troviamo in un atto e non in un gioco di lingua in questo caso, dicevo, se il silenzio lo accettiamo in questo significato, allora si tratta di vedere qual è il contenuto a cui ci si riferisce. Anche perché in rapporto a questo contenuto possiamo comprendere se veramente è un contenuto adeguato al silenzio e se questo contenuto non è altrettanto esprimibile in modo adeguato da altri codici linguistici. La proposta che intendevo fare era quella che il silenzio potesse esprimere come codice linguistico qualitativamente connotato in modo specifico la manifestazione dell'esistenza, cioè potesse esprimere in modo autentico, in modo immediato, senza equivoci, il rapporto dell'esistenza tra i singoli esistenti. Ora, l'esistenza da tutti gli autori dell'esistenzialismo viene caratterizzata come indefinibile e viene in fondo determinata soltanto dalle sue proprietà. Peraltro, caratterizzate attraverso i vissuti unici, irrepetibili della coscienza personale. Cioè, in fondo, lo spazio dell'esistenza è già lo spazio dell'interiorità. Ma in fondo lo spazio dell'esistenza è già lo spazio che non può essere descritto se non per metafore o se non per giochi di lingua di tipo allusivo della interiorità personale. Allora l'esistenza dal linguaggio parlato è toccata ma non descritta in modo ostensivo, è allusa ma non caratterizzata, è in fondo semplicemente ricordata, delineata per via simbolica, ma non è tracciata in modo chiaro. Peraltro, il linguaggio delle parole di fronte all'esistenza realizza equivoci, finzioni, dissimulazioni. Laddove il silenzio costituisce un elemento di richiamo alla intensità dei vissuti, al ripiegarsi su noi stessi, al penetrare in modo immediato, senza distinzione di lingua, senza bisogno di espedienti ermeneutici, quindi significa il richiamo ad un linguaggio originario, ad un codice primario, dove il rapporto comunicativo con il rapporto espressivo fa quasi a mano di canali che veicolano la comunicazione stessa. Evidentemente però tutto un discorso di questo genere si regge su alcuni presupposti. Il primo presupposto consiste nel portare in primo piano il rapporto interpersonale come rapporto a forte intensità affettiva. Non a caso il linguaggio del silenzio è un linguaggio privilegiato nel triplice orizzonte dell'amicizia, dell'amore, del rapporto religioso. Il silenzio esprime esistenzialmente l'inesprimibile in tutti quei casi nei quali la presenza, più che essere evocata e invocata, è vissuta in una immediatezza. Quindi il silenzio in questa situazione esistenziale non è né vuoto, né il piacere della morte, ma è la scommessa sul radicale superamento del solipsismo e la scommessa sul radicale raggiungimento da parte dell'io di un tu, e quindi ecco l'altro presupposto, è il tentativo di gettare un ponte nella trascendenza tra i rapporti delle singole persone e di gettare la trascendenza nei rapporti tra Dio e il tu del totalmente altro di Dio. Il silenzio come entità, come elemento colloquiale, come elemento dialogico, si legge in una dialettica linguistica dove a silenzio corrisponde come risposta altro silenzio. La sintonia del rapporto comunicativo di tipo affettivo realizzato mediante il silenzio richiede da parte dei due partner della comunicazione appunto la sintonia nel silenzio. Cioè richiede una immediatezza nel rapporto mediante lo stesso uso, cioè l'uso del medesimo codice linguistico. Se noi ci riferiamo agli autori delle filosofie esistenziali, qui la connotazione filosofia esistenziale in senso allargato, cioè riferendomi ad autori dell'esistenzialismo, della fenomenologia, in parte anche delle filosofie ermeneutiche, cioè tutti quegli autori quali danno prevalenza ai vissuti interiori personali della coscienza umana. Allora dicevano tutti, e se noi osserviamo tutti questi autori, noi vediamo come in queste forme di linguaggio a forte connotazione affettiva impostano rapporti privilegiati mediante silenzio proprio in alcune situazioni specifiche. Ricordo qui per esempio Levinas con la valorizzazione del volto, dello sguardo, come elementi attraverso i quali a Dio si rivela la presenza di un tu e con elementi ai quali la comunicazione immediata, dialogica tra due persone non esige codici linguistici, perché la rivelazione appunto è data in base a un rapporto immediato. Ma evidentemente lo spazio più vasto, l'abbiamo visto anche qui nel convegno, riservato al silenzio come comunicazione dell'esistenza, è dato all'ambito religioso. Se pensiamo alle riflessioni che vanno da Rudolf Otto fino a Gabriele Marcella, ma vediamo come la fenomenologia del sacro e il rapporto religioso si basano su un largo spazio lasciato al silenzio. E quindi il silenzio si legge appunto su due presupposti, il mistero e la fede. Il mistero e la fede costituiscono gli elementi che nel rapporto religioso di fronte al silenzio di Dio permettono all'uomo di vivere la presenza di Dio stesso nel silenzio. Nel silenzio della meditazione, della preghiera, dei momenti della celebrazione liturgica, abbiamo visto questi giorni caratterizzate tutte le metafore, per così dire, di questi linguaggi. E ci accorgiamo come in questi canali, appunto, il silenzio rappresenta, per così dire, una scommessa pascaliana, rappresenta una modalità per evocare ed invocare una presenza. Rappresenta una modalità dove l'evocazione e l'invocazione non si risolve in una fantasia interiore del soggetto vive nei propri sogni, ma si canalizza in una modalità attraverso la quale il soggetto vive un rapporto con una realtà sentita come trascendente, come esterna a se stesso, come una realtà altra. Ecco, mi pare potremmo continuare con una serie di esempi, ma non mi interessa su cui utilizzare tutto il tempo di allungare il discorso, mi interessava soltanto dare una traccia di quello che mi proponevo di dire. Dicevo, quello che mi pare importante è quello di porre in luce come il silenzio, in questo caso della modalità di comunicazione, cioè quel silenzio che è comunicazione, quel silenzio che è vissuto di una presenza, quel silenzio che è tentativo di una relazione che sembrerebbe impossibile, di una relazione che si pone sul piano della speranza, ma che qualche volta si imposta anche sul piano della disperazione. In fondo, ricordiamoci come dell'esistenzialismo attuale, da Kierkegaard, da Sartre, sentimenti quali l'inquietudine, la noia, la speranza, la e così via, diventano dei sentimenti attraverso i quali ci rapportiamo all'essere dell'uomo e ci rapportiamo all'essere senza bisogno di un'argomentazione linguistica data dalla parola. Ecco, in tutti questi casi è appunto il silenzio che costituisce il veicolo ineludibile dell'esistenza. L'esistenza riesce a stabilire un rapporto colloquiale privilegiato appunto mediante il silenzio. E ripeto, nelle tre forme del linguaggio appunto dell'amicizia, dell'amore e del rapporto religioso, c'è uno spazio vastissimo del silenzio, quello spazio che viene descritto dai poeti, ma che nelle descrizioni perde il suo significato perché la parola lo elude e lo vanifica, mentre viene piuttosto vissuto dai partner reali di questi tentativi dialogici di tipo esistenziale. In queste situazioni il silenzio permette all'esistenza di parlare, permette agli esistenti di porsi in rapporto al di là della confusione delle lingue. Ringraziamo il professor Aurelio Rizzacasa per questo suo rapportarsi critico con le relazioni precedenti, per l'essere stato portatore quindi di parole dialogiche e per le sue riflessioni che costituiscono un approfondimento della tematica silenzio e parola nell'esistenzialismo contemporaneo.